rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Come ormai accade da settimane, anche questa settimana è giusto parlare di immigrazione, di come il tema viene affrontato dai vari giornali europei. E allora cominciamo dalla FAZ, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, che ha ospitato un'intervista al ministro del lavoro tedesco Andrea Nahles, che è una donna, sapete che Andrea in tedesco è un nome femminile, e che ha minacciato, questa è la parola usata dalla FAZ, di ridurre i sussidi ai migranti se questi si rifiutano di integrarsi nella società. Premessa: in Germania esistono dei sistemi per integrarli che da noi non esistono ancora, come l'obbligo di imparare la lingua, non soltanto i fondamentali, ma proprio di riuscire a esprimersi bene in tedesco. E quindi ha un po' la rabbia, appunto, del ministro del lavoro di fronte forse anche alla difficoltà di estendere questa capacità di integrarsi quando i numeri cominciano a essere diversi, ad aumentare di anno a anno. In ogni caso la signora Nahles, appunto, ha detto: tutti coloro che vivono in Germania, indipendentemente dalle loro origini etniche, devono fare uno sforzo, cercare un lavoro, mantenersi e mantenere le proprie famiglie nel miglior modo possibile. E ha anche auspicato che anche su questo, ma purtroppo tocchiamo un tasto dolente, ci siano delle regole europee a cui poi tutti si devono uniformare. A proposito di immigrazione, un altro dato inquietante per molti versi, questo lo hanno riferito sia la Mitteldeutsche Zeitung, che è un piccolo giornale locale, sia la Zeit, che invece è un settimanale a diffusione nazionale, e la notizia riguarda le migliaia di bambini migranti. Secondo i numeri della Polizia Federale tedesca, il Bundeskriminalamt BKA, riportati appunto da questi due giornali, Mitteldeutsche Zeitung, che è un quotidiano, e la Zeit, risultano non rintracciabili 4.800 minori. Di questi, 431 sono sotto i 13 anni, 4.287 di età compresa tra i 14 e i 17. Il dato precedente risaliva al 1 luglio dello scorso anno e il numero era meno della metà, 1.637. Questi dati del BKA si aggiungono a quelli presentati alcuni giorni fa dall'Europol, secondo cui in Europa mancano all'appello circa 10.000 minori migranti. Allora, le ragioni sono tutte le associazioni europee in difesa dei minori hanno un po' accusato il governo di Berlino di aggravare la situazione con l'inasprimento della normativa sui ricongiungimenti familiari. Il problema però è che potrebbe esserci sia un problema in fase di registrazione, ma soprattutto la cosa, appunto, che dicevo inquietante, è che forse molti di questi bambini, di questi ragazzi, insomma, 13 anni sia ancora poco più che bambini, vengono reclutati dalle organizzazioni criminali, per le quali è più facile, ovviamente, più giovani sono i ragazzi, più è facile reclutarli, evidentemente. Una notizia curiosa, perché richiama un po' ancora una volta alla disarmonia su certi temi all'interno dell'Unione Europea, ed è anche divertente perché si può fare un parallelo con quello che è successo nel nostro paese. Ricorderete che nell'ultima legge di stabilità è stato alzato il tetto dell'utilizzo del contante, con tantissime critiche perché si è detto che così si facilita l'evasione. Pensate, in Germania si sta pensando di mettere un limite al tetto dei contanti, che da noi era 1.000 ed è diventato 3.000, e questo limite in Germania sarebbe 5.000, una misura che viene annunciata per contrastare terrorismo, riciclaggio e evasione fiscale. Ovviamente i problemi di evasione fiscale in Germania sono molto diversi dai problemi di evasione fiscale in Italia. In ogni caso, secondo la Bundesbank, la banca centrale tedesca, questa iniziativa limiterebbe la libertà economica dei consumatori, quindi ha pochissime probabilità di essere approvata. Però, ripeto, c'è anche il tema di avere una norma unica su questo all'interno dell'Unione Europea, perché poi si scopre che tutto sommato abbiamo magari molte norme sulla famosa lunghezza dei pomodori o la larghezza delle patate, e che magari sono anche importanti, però non le abbiamo invece su temi finanziari, lo sappiamo benissimo, di difesa e su altri temi molto importanti. Quindi su che cosa davvero si deve concentrare l'Unione Europea, le norme e anche il Parlamento Europeo? Ecco, questo è, come diciamo spesso, forse fa parte di quel grande ripensamento che dovrebbero fare tutte le istituzioni europee. Un'altra notizia che riguarda invece questa volta la Banca Centrale Europea e la riporta la Frankfurt Allgemeine Zeitung è che appunto all'istituto, alla Banca Centrale, che sapete ha sede a Francoforte, il governatore naturalmente è Mario Draghi, si sta lavorando per non emettere più banconote da 500 euro che sapete, più o meno equivalgono a un milione di vecchie lire, che è il taglio più elevato. Chiunque di voi abbia cercato di cambiare o abbia avuto tra le mani una banconota di questo genere, abbia cercato di cambiarla, sa quanto può essere difficile, persino a volte è difficile persino farsi cambiare quelle da 200, quindi a maggior ragione quelle da 500. Secondo appunto alcune recenti dichiarazioni del presidente della banca del governatore centrale Mario Draghi, riportate dalla FAZ, ci sarebbe questa volontà da parte sia del comitato esecutivo della BCE che avrebbe avviato degli studi tecnici, sia da parte di molti eurodeputati. L'ultima parola sul tema spetta al consiglio direttivo, dove siedono, oltre ai rappresentanti del comitato esecutivo, i 19 governatori delle banche centrali dell'eurosistema. Pensate che negli Stati Uniti, ricorda la FAZ, il taglio massimo è 100 dollari dopo che nel 1946 finì l'uso, si pose un limite, quindi vennero ritirate tutte le banconote con un valore maggiore. E questa era la FAZ. E poi, insomma, ogni tanto non è sempre, non si parla sempre male dell'Italia. Ricorderete la scorsa settimana quanto molti giornali hanno un po' ironizzato sulla questione delle statue ai Musei Capitolini coperte da qualche funzionario per eccesso di zelo per non creare imbarazzi al presidente iraniano Rouhani, che forse non si sarebbe neanche tanto imbarazzato. Insomma, lì siamo stati molto presi in giro. E questa settimana invece un quotidiano conservatore francese, Le Figaro, ha fatto un bel ritratto di Matteo Renzi, forse omettendo anche facendo qualche omissione di troppo su quelli che sono poi oggettivamente le promesse non mantenute finora da Matteo Renzi, che ormai lo ricordiamo è il governo da 2 anni, però mettendo soprattutto l'accento sul fatto che lui è sicuramente un grande riformatore e sta cercando di muoversi, di mettere mano a tutti quei fronti che da anni vengono considerati i talloni d'Achille dell'Italia, cioè il mercato del lavoro, il fisco, la lentezza della giustizia, e vengono anche citati alcuni dati che darebbero insomma qualche segnale di ripresa. Sappiamo che poi i dati sull'occupazione sono sempre un po' altalenanti tra di noi in Italia e che soprattutto sono inquietanti quelli sulla disoccupazione giovanile. Però, siccome anche la Francia è messa molto male su questo fronte, e lo ricordiamo, per quanto anche lui si barcameni in una sorta di socialismo progressista, Hollande sarebbe un premier di sinistra e quindi per definizione un giornale di centrodestra come Le Figaro lo critica, allora forse è anche una frecciatina questa dell'elogio di Renzi alla situazione in Francia, dove non ci sono nemmeno quei piccoli segnali positivi di ripresa del lavoro che ci sono in Italia. E quindi, siccome Hollande ha già annunciato che si ricandiderà alla guida del paese, quindi all'Eliseo nel 2017, secondo Le Figaro, ma secondo anche moltissimi altri osservatori, anche di sinistra, se non ci saranno dei miglioramenti sul fronte dell'occupazione, avrà pochissime possibilità. Vi segnalo invece da Internazionale di questa settimana, in edicola da ieri, un bel approfondimento sulla Grecia, no? Ricorderete quanto ne abbiamo parlato, soprattutto durante l'estate, questo articolo molto bello del Volkskrant, un quotidiano olandese, fa un po' il punto. Il titolo è Austerità senza fine. Dopo un anno di governo di Syriza, il partito naturalmente di Alexis Tsipras, e a 6 mesi dal nuovo piano di aiuti, la Grecia è ancora in difficoltà. Le speranze di una ripresa sono sempre più deboli e i cittadini si sentono traditi. E vi leggo l'ultima parte di questo articolo che, come vi dicevo, trovate su Internazionale di questa settimana. In Grecia i giovani sono consapevoli della situazione e provano a cambiare le cose. Alcuni puntano a creare imprese nel settore della tecnologia, altri tornano nelle campagne con idee innovative sull'agricoltura. Il cretese Erotikros Kimionis, 42 anni, ha aperto un negozio di tessuti molto particolare ad Atene in piena crisi. Ci racconta che va alla grande, non solo grazie alla sua ampia rete di contatti e alla sua carismatica personalità, ma a causa della crisi. Molte donne che prima facevano abiti o cuscini a casa per hobby, spiega Kimionis, ora li fanno sono per venderli. È proprio un po' un reportage fatto appunto dal giornalista del quotidiano olandese, ma che è molto bello perché unisce anche dei dati di fatto, come sono appunto quelli delle riforme che ancora il governo guidato dal partito Alexis Tsipras di Syriza non è riuscito a introdurre, soprattutto questo piano di aiuti che non si sa ancora bene che forma prenderà. Abbiamo visto nelle settimane scorse le dichiarazioni della Presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che non è per niente sicura che il fondo voglia di nuovo sostenere la Grecia. E da qui anche su Liberation, sempre su Internazionale, vi segnalo un articolo di Maria Malagardis, le promesse mancate di Alexis Tsipras. I greci sembrano non condividere l'ottimismo del primo ministro e hanno ricominciato a protestare. Anche in questo caso vi leggo le ultime righe. Dopo l'accordo del luglio 2015, Tsipras ha perso una parte dei suoi collaboratori a causa della scissione interna a Syriza. Ricorderete anche l'addio del ministro Rock, chiamiamolo così, Varoufakis, e non è riuscito a cambiare né la Grecia né l'Europa, come testimonia il raffreddamento dei rapporti con gli spagnoli di Podemos, sapete, il movimento che spesso viene affiancato a volte a Syriza, a volte anche al nostro Movimento 5 Stelle. È difficile dire se potrà ancora farcela. Intanto la candelina che ha spento per festeggiare il suo primo anno di governo somiglia molto a un candelotto di dinamite. Insomma, non fa proprio ben sperare questo articolo. Vi segnalo infine una questione, secondo me, molto delicata, che cercheremo di seguire con attenzione, che è quella della Brexit, cioè la possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, non dall'euro, perché sappiamo che dell'euro la Gran Bretagna non ha mai voluto sapere, pur essendo un membro fondatore dell'Unione Europea. E in questa settimana che è appena finita, il Premier Cameron ha avuto molti colloqui con i vertici dell'Unione Europea per cercare di strappare un accordo per avere quelle riforme che, secondo i sondaggi che ha in mano Cameron, i cittadini britannici vogliono, cioè vogliono appunto meno di quelle regole così un po' che vengono considerate non così importanti. Adesso io ho citato quelle sulla lunghezza dei pomodori e la larghezza delle patate, ma ce ne sono tante altre, e molte sono anche riguardano temi come l'immigrazione. Ecco, allora il Times ha pubblicato un sondaggio, e secondo questo sondaggio il sostegno alla proposta di uscita dall'Unione Europea raccoglie sempre più consensi tra i cittadini britannici, anche dopo i piani di riforma dell'adesione presentati dal governo Cameron. Secondo l'ultimo sondaggio dell'istituto YouGov, per conto appunto del Times, la percentuale di chi vuole una Brexit è salita a 3 punti percentuali al 45%, mentre il 36% degli interpellati preferisce restare nella UE. Cosa significa? Che se davvero ci sarà questo referendum sulla Brexit, e se si dovesse votare oggi, e se i sondaggi non mentono, e sapete che è in Italia che le persone sono abituate un po' a mentire ai sondaggi, all'estero sono in generale molto più affidabili, specie nel mondo anglosassone, bene, oggi la Brexit appunto passerebbe, e non è, secondo me, ma secondo anche Financial Times per esempio, quindi la voce della City londinese, non è una buona notizia. Invece questa era l'ultima notizia, l'ultima segnalazione che riesco a farvi per questa settimana. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.